Sottotiro. Sottotiro. Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come ben sapete, la trasmissione si chiama Sottotiro e oggi parliamo di centinaia di famiglie che sono state più o meno consapevolmente sotto il tiro di fumi, di veleni che hanno avvelenato una terra. Parliamo della Calabria, parliamo di Praiamare nell'Alto Cosentino, dove oltre alle peggiori nefandezze compiute negli anni, a partire dagli anni 70, e oltre alla presenza e alla pervasività delle mafie in quella zona, c'è da mettere nel conto anche storie di insuccesso imprenditoriale che hanno lasciato strascichi anche sulla salute delle persone. E ne parliamo perché è uscito un bellissimo libro che si chiama Marlane, la fabbrica dei veleni, storia e storie avvelenate. L'editore è Coessenza, lo potete andare a cercare anche sul sito internet coessenza.org, e gli autori sono Francesco Cirillo e Luigi Pacchiano. Francesco Cirillo è un ambientalista, collega giornalista che da anni su questo fronte, sul fronte della legalità ambientale, è molto molto impegnato. Buongiorno Cirillo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno anche a te Roberto. Allora, caro Francesco, perché questo libro, Marlane, la fabbrica dei veleni, storia e storie avvelenate? Sì, questo libro nasce un po' dalle mie inchieste che faccio alla ricerca di rifiuti tossici nei territori calabresi. Io mi sono occupato tantissimo delle navi dei veleni in Calabria, di quella in particolare davanti i mari, il mare di Cetraro, che era chiamata la Cuschi, e mi sono occupato anche di veleni tossici che provenivano dalla pertusola di Crotone, certo, sotterrati nel Cassanese. Lì ci sono ancora 35.000 tonnellate di ferriti di zinco. E quindi, insomma, facendo questi viaggi mi sono imbattuto quasi 10 anni fa in questo gruppetto di operai che appunto cercavano di avere voce e di far sapere quello che succedeva nella loro fabbrica a Praiamare. Ecco, perché ci sono stati, ricordiamolo, purtroppo numerose morti che potrebbero essere riconducibili per tumore appunto alla presenza di questa realtà produttiva. Sì. Quali sono le conclusioni alle quali tu sei giunto? Questa fabbrica era una fabbrica che lavorava per l'esercito italiano e colorava i tessuti dell'esercito italiano al 60-70% dei loro prodotti. Poi il 30% erano anche coloriture di maglioni e di maglie di ditte importanti che ancora vediamo nelle pubblicità. Ecco, questo qui apro una piccola parentesi per chi non lo sapesse, perché quella zona dell'Alto Cosentino è una zona con una tradizione tessile notevolissima, esatto, ma siccome la Calabria non è capace di valorizzare il meglio di se stessa, purtroppo quella tradizione straordinaria è stata, ahimè, persa oramai per il 99%. Esatto. Chiusa la parentesi. Sì, no, ma è una parentesi importante, anche perché bisogna far sapere ai nostri ascoltatori che queste fabbriche non sono state chiuse per inefficienza degli operai o per fallimenti, no, queste fabbriche sono state chiuse per essere spostate nei paesi dell'est, già dagli anni 90 in poi, con tutti i macchinari e tutti i finanziamenti ricevuti dallo Stato certo, italiano. Certo, certo. Ecco, Francesco, volevo chiederti una cosa, ma in queste tue inchieste, non soltanto quella su Praiamare, ma anche generalmente sulle altre con le quali tu hai avuto modo di confrontarti, è emerso il ruolo comunque anche di un sottobosco di illegalità, di criminalità organizzata, oppure sono vicende che sono soltanto, come dire, confinabili nell'ambito di finanziamenti presi e poi, come dire, si fugge via con la cassa magari? Allora, questa qua di Praia è quello che dici tu, cioè è soltanto finanziamenti e fughe con la cassa dello Stato, e mentre sulla ferrite di zinco e sulla pertusola lì c'è proprio un insieme di cose che appunto fa sì che la Calabria, in Calabria uno del dei lavori più lucrativi da parte dell'Ndrangheta non è, come si usa pensare, il traffico di armi o di droga, ma è quello proprio delle discariche, dei rifiuti tossici e dei sotterramenti di tali rifiuti. Assolutamente. Ultimamente la Commissione parlamentare sui rifiuti ha proprio messo in evidenza la drammaticità non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche dell'inquinamento malavitoso proprio nella gestione dei rifiuti in Calabria. Io ringrazio Francesco Cirillo per il suo intervento. Ricordo il libro Marlane, la fabbrica dei veleni, storia e storie avvelenate, Coessenza editore. Grazie a Paolo Corleoni in regia, Laura Faggini in redazione, Roberto Galullo vi augura una buona giornata.